Europa 24. Il tema è immigrazione in primo piano, non c'è evidenza di frammentazione della rotta dalla Turchia alla Grecia, tuttavia vediamo un aumento nei numeri di arrivi verso l'Italia attraverso la Libia, al momento corrispondono più o meno alle stesse cifre che avevamo lo scorso anno, ma stiamo monitorando la situazione molto da vicino. A parlare così la portavoce della Commissione europea Natasha Berthaud su possibili deviazioni dei flussi di profughi siriani ed iracheni verso l'Italia, dopo la chiusura della rotta dei Balcani occidentali. Con Frontex, ha aggiunto, forniamo qualsiasi assistenza l'Italia necessiti per la gestione di questi flussi. E di immigrazione si è parlato anche al G7 in Giappone. Il documento finale del G7 giapponese accoglie l'appello lanciato dall'Unione Europea ai partner, attestando che i migranti e i rifugiati sono una sfida globale, che richiede quindi anche una risposta globale. Per questo, si legge nel comunicato finale, bisogna aumentare l'assistenza globale per sostenere le esigenze dei rifugiati, delle comunità che li ospitano e cooperare con i partner, specialmente quelli in Africa e Medio Oriente e nei paesi confinanti di origine e transito. Per quanto riguarda l'Italia, secondo il premier Matteo Renzi, non siamo in una situazione di emergenza. Renzi tuttavia spinge perché il Migration Compact arrivi a una fase di concretizzazione. Bene la fase di condivisione, aspettiamo di passare alla fase della concretizzazione. Noi siamo convinti che da qui al prossimo Consiglio europeo, che è ormai distante non più di un mese, speriamo di poter vedere non soltanto il tema all'ordine del giorno del Consiglio europeo, ma qualche segnale concreto dell'Unione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio dal G7 in Giappone il britannico David Cameron nega di essere un euroscettico mascherato, come sostenuto in un'intervista ieri sul Times dal suo vecchio amico e consigliere Steve Hilton. Non sono nulla di mascherato, ha detto il premier britannico. Ho avuto sostanzialmente la stessa visione sull'Europa da quando sono entrato in politica. I dati Eurostat di giornata. Fra la seconda metà del 2014 e la seconda metà del 2015 le bollette elettriche per le famiglie dell'Eurozona sono cresciute mediamente dell'1,3%. In Italia l'aumento è stato del 3,8%. Il maggiore incremento in Lettonia, più 26,8%. La maggiore flessione invece a Cipro, meno 22%. European Inventor Award 2016, Italia in finale con il gluten free. È la Champions League della ricerca europea, quella che si giocherà il 9 giugno a Lisbona. Una finale questa che parla anche italiano. Sono italiane Virna Cerna e Ombretta Polenghi, e tutto italiano è il team che si gioca alla finale all'European Inventor Awards 2016 dell'European Patent Office. Si premia la ricerca, quella che si traduce in brevetti e dunque prodotti. Il team italiano ha messo a punto un nuovo metodo per la produzione di alimenti privi di glutine. Si estraggono dal grano turco proteine con una struttura simile e che pertanto può essere aggiunta a diversi prodotti alimentari. In sostanza e in concreto, un pane un po' più simile al pane anche per i celiaci, come racconta Virna Cerne. Il ciclo è fondamentale dell'impasto, molto simile a quella che si ottiene con la farina di frumento in cui c'è il glutine. Quanto tempo ci vorrà per l'industrializzazione? Qualche anno, potrebbe essere due. Non a caso le due scienziate fanno parte del gruppo di studiosi della Dottor Schar, che gioca un ruolo chiave in questo settore. La ditta altoatesina è stata tra le prime a mettere piede su questo mercato. Oggi controlla il 47% del fatturato italiano di alimenti gluten free, arriva al 40% nel resto d'Europa ed è sbarcata anche negli Stati Uniti. A premiare un team di esperti, ma anche il voto online www.epo.org. Sì, dai, che magari ci arriviamo noi a vincere questo premio quest'anno. E che una coppa in Europa vada alla ricerca targata Italia. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.